693. Latte alla portoghese. È del tutto simile all'antecedente, meno lo zucchero bruciato. Dunque, anche per questo, latte 1 litro, zucchero grammi 100, rossi d'uovo numero 8 e 2 chiare, odore di vaniglia, di coriandoli o di caffè, che sono quelli che più si addicono. Se preferite quest'ultimo, macinate diversi chicchi di caffè tostato. Se aggradite l'odore dei coriandoli, che è grato quanto quello di vaniglia, soppesatene un pizzico e tanto l'uno che gli altri metteteli a bollire nel latte che poi passerete. Se il latte non è di molta sostanza, fatelo bollire anche un'ora e un quarto. Non dimenticate mai il velo di zucchero fuso in fondo allo stampo.